Il Signore disse a Samuele: «Fino a quando fai lutto su Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più su Israele? Riempi il tuo cornetto d'olio e va. Ti mando da Jesse, il Betlemita, perché ho veduto tra i suoi figli il mio re». Rispose Samuele: «Come potrò andare? Lo sentirà Saul e mi ucciderà». Il Signore riprese: «Prenderai con te una vitella dell'armento e dirai: sono venuto per offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Jesse al sacrificio. Io ti indicherò quello che dovrai fare e tu mi consacrerai colui che io ti dirò». Samuele eseguì quello che aveva ordinato il Signore. Arrivato a Betlemme, gli anziani della città gli andarono incontro trepidanti e gli domandarono: «È pacifica la tua venuta?» Rispose: «Pacifica. Sono venuto per offrire un sacrificio al Signore. Purificatevi e venite con me al sacrificio». Fece purificare Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando essi giunsero, egli osservò Eliab ed esclamò: «Oh, il consacrato sta davanti al Signore». Ma il Signore disse a Samuele: «Non badare al suo aspetto e all'altezza della sua statura, poiché l'ho respinto. Perché l'uomo non vede quello che vede Dio. L'uomo infatti guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore». Jesse chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele. Questi disse: «Nemmeno questo è scelto dal Signore». Jesse fece passare Samma e Samuele disse: «Nemmeno questo è scelto dal Signore». Jesse fece passare così i suoi 7 figli davanti a Samuele, ma Samuele disse a Jesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele domandò a Jesse: «Sono dunque tutti qui i giovani?» Quello rispose: «È rimasto ancora il più piccolo, che ora sta pascolando il gregge». Samuele disse a Jesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola finché egli non sia venuto qui». Egli lo fece venire. Era rosso, con begli occhi e bell'aspetto. Il Signore disse: «Su, consacralo, perché è lui». Allora Samuele, preso il cornetto d'olio, lo consacrò in mezzo ai suoi fratelli. Lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e ritornò a Rama. Intanto lo spirito del Signore si era allontanato da Saul e lo aveva invaso uno spirito malvagio da parte del Signore. I cortigiani di Saul gli dicevano: «Ecco, uno spirito malvagio di Dio ti ha invaso. Il nostro Signore dunque dia ordini. I tuoi servi sono davanti a te. Essi cercheranno un uomo che sappia suonare la cetra. Quando lo spirito malvagio di Dio sarà su di te, egli suonerà con la sua mano e tu ne avrai beneficio». Saul disse ai suoi cortigiani: «Cercatemi per favore un uomo che sappia suonare bene e conducetemelo». Uno dei suoi cortigiani prese la parola e disse: «Ecco, ho veduto un figlio di Jesse il Betlemita. Sa suonare, è un prode e un guerriero, abile parlatore e uomo di bella presenza, e il Signore è con lui». Allora Saul mandò dei messaggeri a Jesse dicendo: «Mandami tuo figlio Davide, che è con il gregge». Jesse prese un carico di pane, un'otre di vino e un capretto, e li mandò a Saul per mezzo di Davide suo figlio. Davide, giunto da Saul, rimase al suo servizio. Saul gli si affezionò molto, e Davide diventò suo scudiero. Saul mandò a dire a Jesse: rimanga Davide al mio servizio, perché egli ha trovato benevolenza ai miei occhi. Così, quando lo Spirito di Dio era su di Saul, Davide prendeva la cetra e suonava con la sua mano. Saul trovava la calma, ne aveva un beneficio, e lo spirito malvagio si allontanava da lui.